Federico Bacchiocchi. La crisi economica in realtà colpisce oggi massicciamente la classe lavoratrice e le classi popolari. Noi abbiamo un frangente in cui un giorno sì e l'altro pure il governo decanta una ripresa economica che va tutelata. Questa ripresa economica, però, è la ripresa economica dei grandi utili, della distribuzione dei grandi utili e grandi azionisti, ma che lascia indietro classe lavoratrice e classi popolari. La tutela di questi settori per noi è fondamentale, per noi è fondamentale che l'economia sia guidata dagli interessi della classe lavoratrice e delle classi popolari, che non possono essere colpiti dopo la pandemia anche dall'ondata di licenziamenti e dalle morti sul lavoro di cui la cronaca di tutti i giorni si incarica di raccontarci. Per l'economia in generale proponiamo per la riquisizione delle risorse non il PNRR, ma una tassazione patrimoniale straordinaria del 10% dei patrimoni del 10% più ricco delle popolazioni, che darebbe un gettito di centinaia di miliardi di euro non a carico del debito pubblico. Anche per Bologna proponiamo una tassa comunale patrimoniale straordinaria di questo tipo, della stessa logica, insomma, dello stesso tipo di struttura.